Incontri di Gianfranco Fabi. To answer phone like every fallen leaf on the breeze, winter wouldn't leave it alone. Con questo brano degli U2, Every Waking Wave, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Matteo Moretti. Buonasera. Matteo Moretti è presidente del Polo della Cosmetica e presidente amministratore delegato della Lumson, che è un'azienda ovviamente di cosmetica. E mi spiegava prima che ha scelto questa canzone degli U2 perché è bella. È una canzone che mette di buon umore. Mette di buon umore. Da una canzone ci si aspetta quantomeno di sentirsi di un miglior umore dopo averla ascoltata. Ecco, una canzone bella che anche per introdurre nel mondo della bellezza, perché Matteo Moretti si occupa di cosmetica, un'azienda di cosmetica, ed è presidente di questo polo tecnologico. Cosa vuol dire polo tecnologico della cosmetica? Carta d'identità. Carta d'identità. Il polo tecnologico della cosmetica nasce 10 anni fa come un'aggregazione spontanea di imprese a Crema. Perché a Crema? Perché Crema è ricca di aziende di cosmetica e da almeno non poteva 30 essere anni. Più indovinato, Crema ricorda appunto anche prodotti cosmetici, però è solo un caso. Crema e Cremona sono due città che forse non è molto conosciuto come dato economico, però sono un po' la capitale della cosmetica italiana. Assolutamente sì, addirittura come make-up siamo la capitale mondiale del make-up, nel senso che la maggior parte delle aziende multinazionali del make-up vengono nel nostro territorio a comprare prodotti di make-up proprio per la bravura delle nostre aziende nello sviluppare prodotti e sviluppare packaging, come nel nostro caso. Ecco, quando si acquistano appunto prodotti di nomi noti, di grandi marchi internazionali, marchi anche esotici, poi i prodotti all'interno, i prodotti, la materia prima, ma la lavorazione poi soprattutto, sono realizzati in Italia, sono realizzati in questa realtà di Crema e dintorni. Quante aziende sono in questo polo tecnologico? Attualmente sono 46 aziende, appunto la maggior parte sono all'interno della provincia di Cremona, ma comunque abbracciano tutta la Lombardia. La Lombardia è una delle zone più popolate dal punto di vista aziendale delle aziende appunto della cosmesi, sia per chi produce fa produzione e prodotto, come nel caso della filiera del polo della cosmesi, appunto perché siamo sviluppatori di formule e prodotti, quindi produciamo per l'industria della cosmesi che è anche brand. Ecco, in particolare per esempio la sua azienda, la Lumson, che cosa produce? La Lumson produce da 40 anni, nel 2015, quindi quest'anno compiamo 40 anni. Complimenti, i primi 40 anni si dice. I primi 40 anni, io sono la seconda generazione, l'azienda è stata fondata da mio papà Remo, che è ancora presidente. Intanto il nome, così per una curiosità, Lumson sta per Luigi Moretti San, figlio di Luigi Moretti, quindi già aveva il nome in testa dal punto di vista del suo interesse diretto, insomma. Sì, è vero, aveva già il nome in testa anche sul fatto appunto internazionale. Infatti l'azienda è stata costituito da mio papà proprio perché era un manager in un'azienda multinazionale e si occupava appunto di import-export. Da lì è nata l'idea dell'azienda di iniziare a lavorare un po' attorno alla vetrerie. Siamo stati agenti della Saint-Gobain de Joker francese per diversi anni, agenti esclusivi per l'Italia. Poi abbiamo iniziato a sviluppare le nostre collezioni, quindi parliamo di design, di flaconi, di vetro e di plastica e tutti i sistemi di chiusure. Quindi pompe, quelle che usiamo tutti i giorni per le creme, diciamo usiamo perché oramai le usano tutti. Insomma. Sì, sì, anche i maschietti ormai usano le creme, forse non così intensamente, però non diamo giudizi. Diciamo che il mercato comunque anche sotto questo profilo è un mercato in crescita, anche perché si sta allargando. Sì, il mercato comunque è ricco, il mercato della cosmetica è un mercato che passa da prodotti per i capelli a prodotti per la cura della pelle, al macchiage, a prodotti più particolari, Ed è un mercato che solari. non ha risentito molto della crisi economica che ormai da 6-7 anni sta sconvolgendo le economie occidentali. È un mercato che è quasi un bisogno essenziale, o sbaglio? Ma la spesa comunque pro capite nel settore della cosmesi non è così alta e quindi permette a tutti, più o meno tutti, di poter affrontare le spese appunto per la cura un po' della persona. Credo che sia comunque sempre una delle cose alle quali uno tiene sempre di più, curare un po' se stesso, anche nei periodi un po' più di difficoltà, comunque la cura della persona c'è sempre. Ma anche negli ultimi anni, questo settore, il settore della cosmetica, è cresciuto non con grandi cifre, però rispetto a un'economia generale che andava col passo del gambero, ha messo a segno dei risultati positivi anche sul fronte delle esportazioni. L'Italia, per esempio, ha un saldo della bilancia commerciale cosmetico positivo, mo esporta molto più di quanto importi. Esporta molto di più rispetto alla pasta, per esempio. Quindi il saldo commerciale rispetto alla pasta vince la cosmetica e non vince la pasta. Quindi a volte ci dimentichiamo che ci sono settori nel nostro paese che sono molto importanti e funzionano molto bene e ci dimentichiamo, Ecco, è un non settore faccio un po', commenti. nonostante che lavori per l'appariscente, per quello che è appariscente, lavora per farsi vedere, per farsi più belli, più belle soprattutto, ecco, è un settore che forse è poco conosciuto proprio nella realtà economica. Che cosa manca per avere questo scatto in più per farsi conoscere meglio? Ma dovremmo guardare quelli che fanno meglio di noi. Chi fa meglio di noi? I francesi, per esempio. In Francia sono sicuramente molto più bravi di noi, molto più organizzati come sistema paese, probabilmente. Quindi, dal punto di vista delle necessità delle aziende, fanno già il Certo, massimo di fanno il quello loro che possono fare. dovere. Fanno il loro dovere. Noi oggi esportiamo più o meno tra il 75 e l'80%, quindi è il massimo, più di così non si può fare. Ecco, in Italia però c'è, mi pare sia la più grande esposizione del settore, il Cosmoprof, tra l'altro si inaugura nei prossimi giorni a Bologna, è comunque un'iniziativa che traina il settore, che dà idea delle tendenze, quindi è qualcosa di cui l'Italia può vantarsi. Assolutamente sì. Tra l'altro il Polo della Cosmesi ha anche un rapporto molto importante con Cosmoprof, in quanto collaboriamo assieme proprio per cercare di aiutare ad espandere questa fiera anche verso i mercati esteri. Siamo già presenti con loro anche in altre fiere. Da quest'anno ci sarà anche la fiera di New York, quindi faccio un po' di pubblicità anche a Cosmoprof, ma in ogni caso è una pubblicità Beh, Sistema indiretta al Italia, sistema, ecco, tra esatto. l'altro è un'esposizione non solo per addetti ai lavori, anche per chi può avere la curiosità di vedere come si muove la cosmetica, può andare tranquillamente a Bologna dal 19 in poi, mi sembra. Assolutamente, dal 19 marzo in poi, fino a lunedì 22, mi pare, ci sarà appunto questa fiera importantissima che non è solo per gli addetti tecnici del settore, non solo per l'industria, non solo per i produttori, ma c'è sempre una grande affluenza di pubblico, specialmente nelle giornate del weekend, ecco. Ecco, ci si può rendere conto di un'eccellenza italiana in tutta la filiera della cosmetica, dalla materia prima fino alla presentazione finale di questi prodotti, in cui l'innovazione gioca un ruolo importante. Essenziale. Noi siamo bravissimi da questo punto di vista e per le idee non serve un sistema paese, servono le idee. Le Servono le idee persone. servono le persone, quindi da questo punto di vista nessuno. Forse ci vorrebbe un po' più di motivazione da parte del sistema paese, un po' meno di freno all'iniziativa, alla creatività. Ecco, Mi sta stimolando su alcuni argomenti molto cari alle aziende. sono argomenti molto cari alle aziende, qui volevo appunto una risposta, ma facciamo nella seconda parte del programma. Incontri. una canzone degli U2, tanto per cominciare in bellezza, come avevo detto all'inizio, questo nostro incontro che riprendiamo con Matteo Moretti, presidente del Polo Tecnologico della Cosmetica. Ci ha spiegato nella prima parte che il Polo della Cosmetica riunisce una quarantina di imprese, soprattutto nella zona di Crema, che è un po' il cuore della cosmetica italiana, un settore particolarmente importante, un settore che è riuscito a crescere anche negli ultimi anni di difficoltà economiche, un settore che ha una bilancia commerciale con l'estero in attivo e che vede appunto le imprese italiane esportare circa per il 70-80% all'estero la propria produzione. Un settore che basa appunto la sua forza, la sua crescita sulla ricerca appunto di quello che viene chiamato il Made in Italy, il bello e ben fatto, cioè quindi anche su prodotti che hanno un grande cuore di innovazione. Abbiamo concluso la prima parte parlando di innovazione. Cosa vuol dire innovazione nel settore cosmetico, Matteo Moretti? Vuol dire lavorare tutti i giorni alla ricerca di nuove idee. Chiaramente per le nuove idee non si può stare con l'orologio in mano a aspettare che arrivino, ma bisogna veramente lavorare, conoscere bene il settore, conoscere bene i clienti, conoscere i clienti, specialmente quelli che stanno all'estero, le grandi multinazionali, cosa cercano e cosa non cercano, ma bisogna cercare di trovare delle soluzioni che di siano nascere nuove, far nascere delle tendenze. Delle tendenze, no? Dei bisogni, di dare anche, non tanto di seguire la moda, ma di dettare la moda, cosa che è abbastanza difficile, anche perché, come ho detto, 80% all'estero, quindi i vostri mercati sono l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, anche realtà complicate come quelle cinesi o sudamericane, forse non ancora. Ma la realtà, per esempio, cinese, è alla ricerca comunque di un prodotto di qualità, quindi sanno perfettamente che la competizione con dal punto di vista qualitativo con mercati europei per loro non è facile, specialmente nel settore della cosmetica, dove ci sono comunque normative importanti e anche abbastanza restrittive proprio per la salute della persona. Dal punto di vista chiaramente del prezzo, la battaglia si fa sempre tutti i giorni, ma siamo comunque in grado di affrontarla. Ora ci sta aiutando anche un po' il dollaro, male non fa, quindi certo. Ecco, il mercato americano è anche forse uno dei mercati più importanti per voi, tra l'altro la sua azienda, la Lumson, ha anche un'azienda in America che produce anche in America o... No, negli Stati Uniti abbiamo una filiale commerciale. Quindi la nostra scelta è quella di avere personale nostro dedicato, quindi assunti proprio da noi. Non produciamo negli Stati Uniti, per il momento produciamo solo qui in Italia, quindi Made in Italy. Made in Italy completamente al 100%. Ecco, con una realtà, abbiamo detto, quella di questo polo della cosmetica, è in fondo un distretto industriale nato un po' spontaneamente, ma quale può essere stata l'origine che a Crema si siano costituite, si siano create così tante aziende in questo settore? Probabilmente il nome ha facilitato, ma non è sicuramente la motivazione. Il motivo di fondo, certo. Penso che la motivazione sia da cercare un po' nella storia di alcune aziende veramente storiche. Mi viene da pensare per esempio alla Intercos, azienda molto importante che si trova da Grate Brianza e che ha iniziato questa avventura nel settore del make-up più di 40 anni fa. E che oggi è ancora un leader incontrastato a livello mondiale e che sulla zona di Crema ha iniziato a lavorare cercando alcuni partner, piccole aziende, e da queste piccole aziende sono nate invece altre, sono nate aziende vere e proprie importantissime. Nel caso della mia azienda la storia invece è un po' diversa, perché arriviamo dall'avventura di mio papà, che certo, si occupava invece proprio di contenitori, quindi di packaging. Quindi di packaging del campo della cosmetica. Ecco, ma non c'è la tentazione di queste aziende che sono contoterziste, cioè lavorano per conto terzi, lavorano per dare poi dei prodotti che vengono commercializzati con dei grandi marchi internazionali, di andare direttamente sul mercato? Ma il contoterzista va un po' chiarito che cosa fa il contoterzista. Di due livelli ce ne sono. Ci sono i contoterzisti che sviluppano il loro prodotto e lo vanno a vendere poi sui mercati, e ci sono contoterzisti, quelli classici, quelli che lavorano per conto terzi, quindi mi porti il prodotto, io faccio il confezionamento. Quindi sono due cose completamente diverse. Nel primo caso sviluppano un prodotto e vanno a venderlo, quindi hanno le loro formule, e hanno dei loro laboratori di ricerca all'interno. Nel secondo caso sono aziende molto più semplici, ma che comunque hanno sempre una loro dignità e hanno tanto lavoro. Qui c'è posto un po' per tutti, però, in questo senso. Ecco, c'è posto anche per crescere. Quali possono essere le strade per un'ulteriore crescita nei prossimi anni? Abbiamo detto l'innovazione è fondamentale, e su questo l'Italia ha dei punti di forza. Assolutamente sì, ma per crescere bisogna continuare a testa bassa, come stiamo facendo, lavorando con qualità. E devo dire che se dovesse anche esserci un sistema paese che ci segue, anzi ci segue, che ci dà una mano, che ci apre magari alcune porte, ci facilita, noi non chiediamo granché, semplicemente che non ci creino ostacoli, quindi deve solo facilitare il lavoro alle imprese, e le imprese poi vanno da sole con le loro gambe, sanno perfettamente da che parte andare. Sì, in Italia siamo abbastanza bravi nel complicarci le cose da soli, insomma. Ecco, a parte il fatto che una lamentela normale costante agli imprenditori è quella che paghiamo troppe tasse, che sono troppe complicazioni burocratiche, che sono troppi ostacoli anche di carattere amministrativo. Ecco, queste sono un po' delle lamentele ci sono rituali. Anche problemi anche molto più concreti. Ecco, che su questo comunque punto sono che sempre all'ordine del giorno. Io faccio una battaglia da tanti anni, per esempio, per la fibra ottica, il discorso dell'alta velocità su internet. Qui ci troviamo ancora in alcune zone del paese dove queste cose non ci sono, non esistono, e creano molte complicazioni alle aziende. Nel caso specifico, anche nella nostra zona, fibra ottica ancora non c'è. Siamo nel 2015. A noi sembra una cosa veramente allucinante questa. Eppure è a pochi chilometri da Milano, quindi a pochi chilometri da una realtà che dovrebbe essere il centro, e che sarà poi adesso con l'Expo 2015, sarà il centro appunto dell'attenzione mondiale. Come vede l'Expo? Lo vedo comunque un'opportunità per il paese, un'opportunità per tante aziende. Non credo che sarà una grande opportunità per il settore nostro della cosmesi, che vive di altro. Ma comunque sia, vivo sempre di ottimismo e sono sempre una persona positiva, quindi tutto ciò che si fa e che può portare in avanti per me va sempre bene. Quindi non spendiamo magari delle cifre spropositate, ma credo che sia comunque un'ottima vetrina per il nostro paese. Chissà che non possa aiutare anche questo a rilanciarlo, certo, nel vero senso. Beh, l'immagine del Made in Italy, peraltro, è comunque un'immagine che resta un'immagine forte. Lei ha rapporti con tanti paesi, soprattutto con gli Stati Uniti, con gli altri mercati, resta un'immagine forte. Che cosa si può fare per rafforzarla ancora di più e per togliere quelle piccole patine di problemi che comunque anche il Made in Italy ha? Il Made in Italy è fortissimo e lo vediamo sempre quando siamo in giro, come alle fiere, quando incontriamo i clienti, quando andiamo a presentare i prodotti nuovi. I clienti si aspettano e sanno che quando incontrano una delle nostre aziende italiane trovano sempre delle cose interessanti. Io direi, se dovessi parlare a chi si occupa dell'amministrazione dello Stato, di guardare veramente alle aziende per forse prendere anche spunto per alcune cose. Cioè aziende che funzionano, che possono funzionare bene, e che forse anche lo Stato dovrebbe funzionare allo stesso modo, però anche se è una cosa un po' diversa. In fondo lo Stato deve andare un po' più al bene comune che non all'interesse individuale. Poi dopo, facendo un po' di equilibri tra bene comune e interesse individuale, si può appunto avviare anche una crescita che sia positiva per tutti. Sicuramente. Comunque è un settore che cresce anche da un profilo dell'occupazione, può essere un motivo in cui un giovane può dire: entro in questo settore, mi specializzo, ci sono ancora delle opportunità? Sicuramente sì, se vuole lavorare bene, assolutamente. Se ha voglia, se ha ambizione, se ha un po' di spirito di iniziativa, lo spazio a mio avviso c'è. Forse più per il marketing che per la chimica? No. Direi che anche per chi ha voglia ancora di fare un po' il genialoide e che vuole trovare nuove soluzioni tecniche, non solo per il marketing. C'è anche, ecco, e dal punto di vista della formazione avete qualche iniziativa come polo tecnologico della cosmetica? Com'è il collegamento, per esempio? C'è interesse da parte delle scuole a vedere com'è la realtà aziendale, o si potrebbe fare di più su questo profilo? Si potrebbe fare molto di più. Le scuole vengono molto spesso in visita nelle nostre aziende, un po' da tutta Italia. A mio avviso servirebbe molto più un incontro tra gli studenti e le aziende. Oggi è un po' complesso da gestire, ma... Cioè è complesso da avere un rapporto, diciamo, non solo da visita all'azienda, ma avere anche degli stage operativi, quello scambio di rapporti appunto tra scuola e impresa, che in paesi come la Germania sono molto più frequenti che in Italia. E aiuterebbero anche gli studenti stessi a prendere un certo tipo di strada e a capire quale potrebbe essere davvero il loro futuro. Ecco, Matteo Moretti, siamo in conclusione. Come presidente del Polo della Cosmetica, che augurio possiamo farci per quest'anno che è già iniziato da tempo, ma comunque guardando ancora in avanti, stiamo probabilmente un po' superando il momento più difficile della crisi economica. Bisogna respirare un po' più di fiducia e di ottimismo. Possiamo respirarlo anche guardando alle cose belle come la cosmetica? Probabilmente sì, speriamo di sì. Io ho 3 figli. Sono molto ottimista, come dicevo prima, ho due bambine e un maschio che veramente vorrei che potessero andare avanti a lavorare in questo paese e che ci fossero davvero ancora tante possibilità anche per i giovani, per il futuro. Bisogna che anche la politica ragioni non solo nell'immediato, ma anche per le prossime generazioni, che è quello per cui dobbiamo tutti impegnarci. Assolutamente sì. Grazie, grazie Matteo Moretti. Grazie. Grazie di essere stato con noi. Ricordo, Matteo Moretti è presidente del Polo Tecnologico della Cosmetica di Crema. Io ringrazio anche Luca Cremonese in redazione e Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e per quanto resta ancora. Buona domenica.